Garibaldi fu ferito di una gamba. Il Gazzettino del Risorgimento. Storie da una giovane Italia. Per Garibaldi, viva! Di Simone Spezia e Paolo Piacenza. 1870, l'Italia si prende Roma. Roma è italiana. La disfatta francese nella guerra contro la Prussia, una vera e propria carneficina con centinaia di migliaia di morti, ha avuto per il nostro paese un significato chiaro. La via della città eterna era aperta e così da fine agosto la macchina dei preparativi si è messa in moto. Il ministro degli esteri Visconti Venosta ha diramato una nota di rassicurazioni sulle garanzie per il pontefice e la Chiesa. La maggior parte dei governi ha risposto con la promessa di una non ingerenza. Anche la macchina militare si è messa in moto. Il corpo di spedizione italiano, guidato dal generale Raffaele Cadorna, ha potuto allineare circa 50.000 uomini contro i poco meno di 15.000 soldati pontifici, francesi e volontari, al comando del generale Kanzler. L'ultimo più delicato passo è stato quello verso il Papa. A lui è stato mandato il conte Ponza di San Martino, con la speranza di ottenere un via libera anche di fatto, ma la lettera di risposta, pur senza esacerbare i toni, ha confermato la linea della non acquiescenza. Maestà, il conte Ponza di San Martino mi ha consegnato una lettera che a vostra maestà piacque dirigermi. Ma essa non è degna di un figlio affettuoso che si vanta di professare la fede cattolica e si gloria di regia lealtà. Io non entrerò nei particolari della lettera per non rinnovellare il dolore che una prima scorsa mi ha cagionato. Io benedico Iddio, il quale ha sofferto che vostra maestà empia di amarezza l'ultimo periodo della mia vita. Quanto al resto, io non posso ammettere le domande espresse nella sua lettera, né aderire ai principi che contiene. Faccio di nuovo ricorso a Dio e pongo nelle mani di Lui la mia causa, che è interamente la sua. Lo prego a concedermi abbondanti grazie a Vostra Maestà per liberarla da ogni pericolo, per renderla partecipe delle misericordie onde ella ha bisogno. Il corpo di spedizione italiano è penetrato dall'Umbria, giungendo alle porte di Roma. Si sono fatti ancora vari tentativi per una consegna pacifica della città fino alla sera del 19 settembre, poi però è arrivato l'ordine di attaccare. La corrispondenza di Paolo Piacenza. La battaglia è stata vera, anche se poco cruenta. Ci sono stati dunque morti dalle due parti, ma pochi, perché pare che il Papa abbia chiesto una difesa simbolica, non certo all'ultimo sangue. L'attacco è stato lanciato la mattina del 20 settembre. Intorno alle 9 l'artiglieria italiana ha aperto il fuoco e a Porta Pia, verso la Nomentana, è stata creata una breccia di circa 30 metri nelle mura che ha permesso l'assalto di due battaglioni di fanteria e di bersaglieri. Abbiamo parlato con il capitano dei bersaglieri Tommaso Garrone, che conosciamo bene. Ci ha detto che l'assalto è stato impetuoso. Gli zuavi hanno resistito, ha spiegato, con coraggio e hanno intonato il canto dei crociati di Châtelineau. Poi però c'è stata la resa. Pio IX ora si è chiuso in Vaticano dopo aver condannato l'atto di occupazione. È apparso piangente alle sue truppe riunite in piazza San Pietro e le ha benedette. Poi le finestre si sono chiuse per non riaprirsi più. Pare si appresti a scomunicare il re d'Italia e i partecipanti all'attacco e pare anche voglia imporre ai cattolici italiani di non partecipare alla vita politica della nazione. Intanto la giunta militare guidata da Cadorna garantisce l'ordine in città e nel Lazio occupato, dove si svolgerà a breve l'atteso plebiscito per l'unione all'Italia. L'esito naturalmente è considerato scontato. Roma italiana sembra l'ultimo atto di questa grande vicenda del Risorgimento. Simone Spezia, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24.